in primo piano. Buongiorno a tutti. È ancora l'economia nazionale e internazionale a tenere banco sulle prime pagine dei giornali, purtroppo, perché le notizie certo non sono buone. Tassi ai minimi, borse a picco, titola del Sole 24 Ore, BCE taglia i tassi, borse a picco, La Stampa, Europa, tassi mai così giù, il Corriere, Repubblica, Tremonti, il 2009 sarà terribile. Leggiamo brevemente dal quotidiano economico, dal Sole 24 Ore, un riassunto della giornata di ieri. La Banca Centrale Europea, come previsto, ha abbassato di mezzo punto il tasso di interesse ufficiale, portandolo all'1,5%, il livello più basso dalla nascita dell'euro. A scuotere i mercati è stato però il netto peggioramento delle previsioni economiche della BCE, che ora stima per quest'anno nell'area euro una caduta media del PIL, cioè della ricchezza prodotta, del 2,7%, tanto che il presidente Jean-Claude Trichet ha fatto capire che potranno esserci altri allentamenti monetari. Anche la Banca d'Inghilterra ha tagliato i tassi di un altro mezzo punto al minimo storico dello 0,5% e soprattutto ha avviato una politica quantitativa di immissione di liquidità nel sistema tramite l'acquisto di obbligazioni, in particolare titoli di Stato. In sostanza la Bank of England stamperà moneta fresca. Nell'ennesima giornata nera delle borse si è distinta in negativo Piazza Affari, la peggiore in Europa, meno 5,85% l'indice Standard & Poor's MIB. A Wall Street l'indice Standard & Poor's 500 ha chiuso a meno 4,25%. Va detto che anche di spalla, in prima pagina, il Sole 24 Ore non ci risparmia. Purtroppo le brutte notizie della giornata di ieri: General Motors teme il fallimento e scrive alla SEC, la Consob americana, dubbi su continuità aziendale. Dubbi sostanziali, scrive il Sole 24 Ore richiamando gli articoli interni di Andrea Malan e Marco Valsania, sulla capacità di sopravvivere. General Motors ha ammesso ieri che i suoi revisori dei conti temono che la grande casa automobilistica americana rischi di non essere più un gruppo autosufficiente. L'ex colosso di Detroit è quindi ora un passo dall'amministrazione controllata e ieri a Wall Street il titolo ha perso il 16%. Attualmente il gruppo capitalizza appena 950 milioni di dollari. Abbiamo visto brevemente dalle titolazioni che Repubblica sceglie di aprire sulla situazione economica italiana piuttosto che sullo scenario internazionale. Ricordiamo Tremonti, il 2009 sarà terribile. Leggiamo una breve sintesi della giornata di ieri del ministro dell'economia italiano. Anno orribile, parola del ministro dell'economia Giulio Tremonti, che torna pessimista e, dopo le stime di Confindustria e Banca Italia, che vedono il PIL del 2009 contrarsi del 2,5-2,6%, lancia l'allarme. Quest'anno sarà ancora più difficile di quello passato, ha detto il ministro dell'economia rilanciando la sua metafora della terra incognita per descrivere la situazione in cui ci troviamo e l'impossibilità di fare previsioni. Le dichiarazioni di Giulio Tremonti vengono commentate su Repubblica in prima pagina da Massimo Giannini. Il titolo è La favola del corvo, richiama ovviamente la polemica di alcuni giorni fa di alcuni esponenti del governo con la presidentessa di Confindustria, Emma Marcegaglia, la quale aveva fatto delle previsioni particolarmente negative sull'andamento dell'economia del paese ed era stata appunto tacciata di essere un corvo da alcuni esponenti del governo. Ultimo venne il corvo, scrive Giannini. Alla fine anche Tremonti si è arreso all'uccello del malaugurio che già da settimane, secondo la vulgata governativa, volteggiava tra Confindustria e Banca d'Italia. Prosegue a pagina 35 Massimo Giannini, cerchiamo di trovarla questa pagina 35. Il 2009 dunque sarà un anno terribile, noi lo sapevamo già, come lo sapevano migliaia di cassintegrati rimasti senza lavoro, di precari rimasti senza sussidi, di piccole imprese rimaste senza ordinativi. Ora lo riconosce pubblicamente anche il ministro del Tesoro. La paura ha ceduto alla speranza. La resa di Giulio è verosimilmente dolorosa e colpevolmente tardiva. Ma nessuno se ne può compiacere. Se anche lui ha capitolato dopo mesi di cadornismo congiunturale, vuol dire che l'Italia è davvero messa male. Si conclude così questa la prima parte dell'articolo di commento di Massimo Giannini su Repubblica. Per restare su temi economici, a pagina 27 del Corriere si dà conto della polemica tra Alitalia e Ferrovie dello Stato, polemica dovuta all'acuirsi della concorrenza benefica per gli utenti tra le due società, in particolare per quanto riguarda la tratta, il collegamento Milano-Roma. Scrive sul Corriere Antonella Baccaro: se non siamo alle carte bollate, poco ci manca. Tra le Ferrovie e Alitalia i rapporti non sono mai stati così tesi, al punto che ieri un comunicato dell'azienda ferroviaria guidata da Mauro Moretti, in replica ad alcune affermazioni dell'amministratore delegato di Alitalia Rocco Sabelli, si concludeva così: in ogni caso, il gruppo FS si riserva di utilizzare ogni strumento nelle opportune sedi per la tutela della propria immagine. La contesa, scrive ancora il Corriere, ha al centro la concorrenza sulla rotta Milano-Roma. Il guanto della sfida era stato lanciato dal Moretti, che aveva rivendicato in un'audizione al Senato il sorpasso del treno ad alta velocità sull'aereo. La replica di Sabelli si è fatta attendere, ma è stata durissima. Il ruolo delle Ferrovie dello Stato sul mercato, ha detto Sabelli, è quantomeno ambiguo. Le Ferrovie nel 2008 hanno ricevuto dallo Stato 3,6 miliardi di euro. E ancora, noi ci troviamo a dover competere con un'azienda che non è un'impresa. Proviamo a separare la contabilità sulla Roma-Milano e così vediamo se da parte delle Ferrovie non ci sia una competizione unfair, una competizione scorretta. Il Giornale, come avviene quasi sempre, decide di puntare su argomenti diversi rispetto alle principali notizie di cui danno conto gli altri giornali. Torna a Fittopoli, casa al VIP a 300 euro. Questo è il titolo d'apertura del Giornale. A Napoli canoni stracciati per appartamenti di pregio della regione Campania e a Roma palazzi donati ai ciechi ospitano inquilini privilegiati. Chi sono? Politici, sindacalisti, magistrati, giornalisti Rai. Vi svegliamo dove vivono. A pagina 9 ci sono i servizi di su questo argomento. Carmine Spadafora da Napoli: ma chi l'ha detto che a Napoli i prezzi delle case sono proibitivi? Anzi, che sciocchezza pensare che un appartamento per una famiglia di 4 persone costi quanto lo stipendio di un alto dirigente statale. La Napoli del sindaco Rosetta Iervolino e del governatore Antonio Bassolino va in controtendenza. Un'abitazione con balconata, con vista sullo splendido golfo e sul Vesuvio, vale solo 1000 euro al mese. Questo gioiellino è possibile ammirarlo in via Girolamo Santa Croce 60, in una lunga e tortuosa strada alberata, come detto super panoramica, che collega il quartiere Vomero con il centro storico. Certo, non vi abitano i cassintegrati Fiat, ma che importa? C'è un loro rappresentante, questo è già consolante, si fa per dire. A godersi quei 4 vani più accessori per 120 metri quadrati, infatti, c'è il segretario generale della CISL della Campania, Pietro Cerrito. Per quanto riguarda gli esteri, i temi più ricorrenti sui giornali di oggi che hanno maggior rilevanza sono i rapporti tra Stati Uniti, Iran e Russia, ad un lato, e la vicenda ancora Bashir, il presidente del Sudan, di cui è stato chiesto l'arresto dalla Corte Penale Internazionale, l'altro. Hillary tende la mano a Teheran, con la NATO al tavolo per l'Afghanistan e con la Russia è ora di un nuovo inizio, a pagina 19 di Repubblica. Scrive Alberto D'Argenio dando conto del vertice ministeriale della NATO ieri a Bruxelles con la partecipazione di Hillary Clinton. Al suo debutto sul palcoscenico della NATO, il neo segretario di Stato americano Hillary Clinton porta a casa il sostegno degli alleati su due pilastri della dottrina Obama in politica estera: dialogo con l'Iran e ritorno ai normali canali diplomatici con la Russia. Una giornata a suo modo storica, segnata dall'annuncio che la Repubblica Islamica sarà invitata alla conferenza NATO-ONU sull'Afghanistan, che dovrebbe tenersi a Bruxelles il prossimo 31 marzo. Sempre su Repubblica, la pagina successiva, la Cina no all'arresto di Bashir. Anche Russia e Iran contro la decisione dell'AIA sul leader di Khartoum. Mezza Africa in rivolta, scrive Daniele Mastrogiacomo. La Lega Araba e l'Unione Africana che mostrano tutte le loro preoccupazioni. E poi l'Iran, la Siria, il Sudafrica, la Russia, la Cina. Fino all'inattesa solidarietà del presidente dell'Assemblea delle Nazioni Unite. Mai come in queste ore, il presidente del Sudan, Omar al-Bashir, è riuscito a provocare tante reazioni dello stesso segno. Il mandato di cattura spiccato dalla Corte del Tribunale Penale Internazionale nei suoi confronti ha avuto l'effetto di una bomba. Pechino, che dal Sudan esporta quasi il 70% del suo fabbisogno petrolifero, ieri mattina ha reagito per prima. Forte del seggio permanente al Consiglio di sicurezza e quindi con diritto di veto, ha chiesto che il provvedimento restrittivo sia congelato per un anno. Il Corriere della Sera in prima pagina ha un servizio di Massimo Giannini, di Massimo Gaggi, scusate, dagli Stati Uniti sulle job fair, sulle fiere per il lavoro che si stanno moltiplicando negli Stati Uniti e non solo, ne abbiamo notizie anche di numerose in Cina, in questa situazione ovviamente in cui molti perdono il posto di lavoro a causa della crisi. Banchieri e manager in coda anche per fare gli elettricisti, è il titolo dell'articolo di Massimo Gaggi. Lavoravo in Madison Avenue alla Young and Rubicon, uno dei leader mondiali della pubblicità. Ora è qui, alla Job Fair di Times Square, a caccia di un lavoro. Anthony Moore è in fila davanti al banchetto del Dipartimento della Sanità dello Stato di New York. Finché è durato è stato bello, racconta, ma è durato fino al 2006. Poi è cominciata la crisi. L'azienda è scesa da 1.500 a 285 dipendenti. Io ho fatto molti lavori da freelance, ho guadagnato quello che serve per sopravvivere a Manhattan. Ho una casetta nel village. Certo, i soldi sono pochi, mia moglie se n'è andata, ma non ho figli, fin qui ce l'ho fatta. Adesso però si fa davvero dura. La faccia è sofferta, scrive Massimo Gaggi, scavata, ma Anthony non si sente uno sconfitto. Ho 54 anni, un'età pericolosa, lo so, ma ne dimostro di meno e ci sono varie cose che posso fare nel campo della sanità con la mia esperienza di pubblicitario. Bisogna essere pratici. La salute, la cura della persona è l'industria del futuro. È un datore di lavoro pubblico, di questi tempi, non guasta. Flessibilità tipicamente americana, nota Massimo Gaggi, ma anche lo stil nuovo dell'ambizione europea ad un posto sicuro. Di un altro volto, di un altro aspetto, molto particolare va detto, della crisi, dell'effetto della crisi, lo troviamo sulla stampa in prima pagina in un articolo di Massimo Gramellini. Il titolo è I tulipani dei ponti di Torino. Appassito per mancanza di risorse, il comune di Torino ha deciso di togliere gli addobbi floreali dai ponti della città. Insieme con le luci colorate che di notte ne illuminano gli angoli più suggestivi, i tulipani affacciati sul Po hanno contribuito a trasformare l'ex capitale dei Visigrigi in un luogo di eleganti godurie. Col taglio di tulipani, viole e petunie si risparmieranno 250.000 euro. Ma si ricomincerà a spennellare tristezza sul panorama, con effetti deprimenti per la psiche collettiva e per lo status di attrazione turistica conquistato di recente. Questa crisi rischia davvero di abbruttirci. Ci abbruttisce nelle scelte collettive dominate dalla retorica di chi si oppone all'abrogazione degli enti inutili e continua a sprecare denaro pubblico in convegni allucinanti e consulenze lobbistiche, ma in compenso cerca di far passare per superfluo il bello, che invece superfluo non è mai, perché essendo bello riempie le anime, le quali non sono certo meno importanti delle pance. così Massimo Gramellini sulla Stampa di Torino. Il Foglio dedica un ampio spazio a un racconto della vita di José Mourinho. José Mourinho è l'allenatore dell'Inter, è diventato uno dei personaggi di cui si parla di più in questo paese per il suo, diciamo, modo di fare inusuale, molto sciolto, molto aggressivo anche a volte. Racconta Beppe Di Corrado sul Foglio. Riavvolgi, play. José fu chiamato dal padre, riscaldati. Si era informato lo stopper titolare e Félix Mourinho guardò il figlio. Aveva 19 anni e mai esordito in campionato. Era pronto o forse no? Scese negli spogliatoi per riscaldarsi. Non tornò, fermato da un messaggio arrivato dalla tribuna in panchina. Se metti in campo tuo figlio, siete licenziati tutti e due. José rimase a guardare la partita mentre suo padre si agitava a bordo campo. Persero 7-1 e cominciò l'era di José. Perché dicono i biografi più o meno ufficiali che quel giorno del 1982 Mu, come viene chiamato spesso con questo diminutivo José Mourinho, decise che avrebbe allenato e non giocato, che avrebbe ordinato e non ubbidito. Nessuno ricorda la data, neanche Luis Lorenzo, che tiene schedati in movimento tutte le vite di José. Non aveva neppure 20 anni e giocava nel Rio Ave. Giocava no, l'ha detto anche lui, era lì, ma se ne sarebbe andato presto, a casa, Setúbal, dove comincia José e dove un giorno finirà, perché lui non si immagina straniero ma indigeno, viaggiatore e non immigrato. Questo è l'inizio dell'articolo di Beppe Di Corrado sul Foglio dedicato a José Mourinho. Un'occhiata per prima di concludere ai settimanali. Il venerdì sono in edicola, tra gli altri, Panorama e l'Espresso. La copertina dell'Espresso: casa, cara casa, prezzi ancora in calo per il 2009. Chi può aspetta a comprare, ma con il crollo delle borse il mattone torna a essere il grande bene rifugio. Panorama sceglie una polemica apertura sul green business, sulla green economy, sull'economia verde. Gli ambientalisti spengono l'energia verde. Vento, sole, biomasse, dighe, calore sotterraneo. Tutte fonti rinnovabili e non inquinanti. Potrebbero dare all'Italia 18.000 megawatt, un quarto della produzione nazionale. Ma 67 centrali sono bloccate da minuscoli gruppi di ecologisti, anzi di egoisti, e il danno supera già i 20 miliardi. In anteprima un rapporto sconcertante sull'effetto NIMBY. L'effetto NIMBY viene dall'inglese not in my backyard, vuol dire non nel mio cortile, cioè tutto va bene purché non si faccia vicino a casa mia. E con questo chiudiamo la rassegna stampa di oggi e di questa settimana. Grazie, buon fine settimana a tutti.